La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. E ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci al nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Tanto cinema, tanti film, anche piuttosto interessanti, ma noi dobbiamo aprire con una cosa gravissima. Abbiamo sbagliato amici. Settimana scorsa abbiamo sbagliato la pronuncia di Carnage. Si dice Carnage, anzi sentiamo come si dice. Carnage. Ecco, questo è Forvo. Carnage. Bene, Forvo è il sito che... è la verità su come si pronunciano le cose. Si dice Carnage e noi invece abbiamo detto Carnage. Abbiamo sbagliato l'accento, l'abbiamo messo sulla I dopo perché facevano tutti così a Venezia. Noi ci scusiamo, alcuni ascoltatori sulla nostra pagina Facebook hanno gridato alla vergogna. Noi ci siamo un po' vergognati e abbiamo fatto sentire, ristabilito questa verità che salverà il mondo. Anche se Christoph Waltz, che o Christoph Waltz, occhio alle pronunce oggi ragazzi, che è austriaco, nel trailer del film lo pronunciava così. I believe in the God of Carnage. Ecco, avete sentito un po' più spostato. I believe in the God of Carnage. Un po' meno secco di quello di Forvo, certo, non come la vergognosa nostra pronuncia. Insomma, ecco, abbiamo ristabilito questa verità, ci tenevamo moltissimo. E adesso invece, bando alle ciance, parliamo di cinema, parliamo dei film della settimana e cominciamo dal ritorno del Dio col martello, stiamo parlando di Thor. So che brami vendetta tanto quanto me. Se tu mi aiuterai a scappare da Asgard, io te la concederò. Vendetta. Dopodiché tornerai in cella. Perché pensi di poterti fidare? Io non mi fido. Ma sappi che quando abbiamo combattuto in passato, nutrivo un barlume di speranza che dentro di te mio fratello esistesse ancora. Quella speranza è svanita, non avrai più protezione. Tu tradiscimi e io ti ucciderò. Insomma, i propositi di Thor sono chiari con il fratello che come sempre si comporta da fratellastro anche in questo secondo Thor The Dark World di Alan Taylor con Chris Hemsworth, sempre svestiti i panni di James Hunt contro Niki Lauda, ridiventa Thor, ma a fianco lui trova Natalie Portman, Stellan Skarsgård e tutta una serie di altri importanti attori. Boris Sollazzo, che è l'importante attore della Rosa Purpurea, in collegamento con noi. Ciao Boris, come stai? Bene, benissimo. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come si pronuncia Thor? Non t'azzardare, stai attento, diciamo, non t'azzardare. Thor. Allora, parliamo un po' di questo secondo Thor. C'è, diciamo, ciccia o, come spesso accade con questi sequel, il meglio è già arrivato? Allora, diciamo che le due sicurezze sono che Thor è ritornato e ritornerà. Questo è sicuro. Detto questo, secondo me ciccia ce n'è. Bisogna intendere che cosa vogliamo definire con questa parola, però è un film molto divertente, è un film che cavalca l'epica dei supereroi, della nouvelle vague dei supereroi, nel modo migliore. Certo è che bisogna dargli un credito che magari in altri film di supereroi non bisogna dare, perché al di là dei superpoteri, al di là di un universo particolarmente strutturato a cui bisogna dare affidamento, c'è anche questo aspetto divino degli asgardiani che rende tutto ancora meno credibile. Se si supera questo aspetto ci si diverte perché c'è tutto dell'epica, sia antica sia moderna, e in particolare questa lotta tra fratelli che, devo dire, come succedeva in Rush per Chris Hemsworth, dove la sua performance faceva risaltare soprattutto Daniel Brühl, qui succede lo stesso con Loki, cioè si aspetta ogni apparizione di Loki come se fosse un'epifania, Tom Hiddleston è straordinario, e Hemsworth come al solito risulta un'ottima spalla. Va detto che poi, per quanto riguarda i film di supereroi, lo insegna Christian Bale, quasi sempre il supereroe finisce per essere la spalla di tutti gli altri personaggi più importanti, e alla fine ci si diverte, è un filmone, è un giocattolone, è molto fracassone, però alla fine io devo dire mi sono passate, in un pochi minuti mi sono passati molto molto piacevolmente. Però si pronuncia Daniel Brühl, non Daniel, mi raccomando, perché anche lui è austriaco barra tedesco, mi raccomando. Allora, quindi Thor, diciamo, può essere un buon intrattenimento per questo fine settimana. Io vi ricordo le classifiche ancora dominate in termini assoluti da Checco Zalone, dal suo Sole a Catinelle, film record, 50 milioni di incasso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ovviamente il nuovo che avanza pian pianino ricomincia a prendere posizione nelle alte sfere della classifica, e pensiamo che Thor sia uno di quei film che potrebbero trovarsi da quelle parti, almeno nella classifica del primo weekend di programmazione. Giochiamo insieme anche questa settimana, giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso. Per finire, monsieur, posso offrire una mantina? Là. Oh, monsieur, è solo una piccola mantina sottilissima. Vaffanculo, sono pieno. Oh, monsieur, è solo una sfoglia sottilissima. Avete indovinato di che film si tratta? L'avete riconosciuto? E allora scriveteci il titolo e il vostro indirizzo di posta ordinaria per ricevere eventualmente il Blu-ray di questo film. Alla Rosa Purpurea, @radio24.it, la Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, titolo e vostro indirizzo per provare a vincere uno dei due Blu-ray in palio in questa settimana. Più tardi avremo un'altra possibilità. Andiamo avanti con il cinema, con i consigli di visione di questo fine settimana per un film che arriva dall'Iran, arriva da un regista che si è già affermato nell'ambito festivaliero, ma anche nelle distribuzioni ormai praticamente di tutto il mondo, con il grande successo di Una separazione, vincitore tra gli altri di un Oscar, pensate, di cui la stampa ufficiale iraniana non ha dato notizia all'epoca, e speriamo che i cambiamenti in atto in Iran portino anche qualche beneficio sotto questo profilo. Parliamo di Asghar Farhadi, che torna tra l'altro con nel cast la bellissima Berenice Bejo nel film Il passato. Che modo è questo? Eh? Se io ti dico di scendere, scendi. Mi vuoi guardare? Che cos'hai? Voglio tornare a casa di Maria. Ora dobbiamo tornare a casa nostra. Tu mi avevi detto che casa nostra era quella, però. Per sempre quella. Berenice Bejo presente in due film in questo momento, oltre Il passato anche Il paradiso degli orchi. Boris, ancora una volta Asghar Farhadi entra nel vivo del dramma di una famiglia, come aveva fatto con Una separazione, di cui questo film quasi sembra un sequel in un certo senso. È un sequel oppure un remake occidentale, perché il problema di questo film secondo me è proprio che, come le grandi rockstar, torna sul suo successo cercando di replicarne proprio le strofe, le melodie, il senso, e chiaramente la sensazione di già visto e già visto meglio si viene a creare. Questo perché? Perché Una separazione era straordinario, perché era la metafora dell'Iran, del suo fondamentalismo, tutto all'interno di una casa, con dinamiche cinematografiche quasi hitchcockiane. Qui invece si porta il problema della famiglia, il problema della divisione tra dei genitori sul piano del conflitto di culture. Diventa tutto più didascalico, diventa tutto più macchinoso. Ecco perché mi sento di dire che, pur venendo da un grande regista e pur con scene molto importanti, Il passato rimane una delusione, perché tutto quello che vediamo di buono nel passato è stato fatto meglio in Una separazione. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea a parlarvi dei film in sala in questo fine settimana. Abbiamo detto In solitario, un altro attore francese molto popolare anche in Italia, come François Cluzet, torna in questo film. François Cluzet, uno degli attori di Quasi amici, per intenderci, quello sulla sedia a rotelle, ecco. In solitario è un film che racconta già un'impresa, quella di un attraversamento oceanico appunto in solitario, con una barca a vela, una di quelle imprese di cui parlano le televisioni e i giornali di tutto il mondo, che però nel caso di questo film diventa parzialmente in solitario. Sentiamo la clip. Per la sua prima regata intorno al mondo, Jan Kermadec ha dovuto sostituire Frank Drevile e al terzo giorno è secondo in classifica generale. Aveva promesso di telefonarmi. Lo farà più tardi. Porca puttana! Come sei salito? Che ci fai qua? Che ci fai qua, allora? E allora, che ci fai qua? La scoperta di non essere in solitario, che qualcuno si è imboscato nella barca di Jan Kermadec, e che adesso l'obiettivo è anche quello di coprire questa presenza che non può essere svelata. L'uomo contro tutti, l'uomo contro la natura, l'uomo che appunto in solitario affronta una sfida più grande di lui, Boris. Beh, un uomo contro se stesso soprattutto, a parte che nel film vediamo che si arriva addirittura quasi a una crociera, perché in un certo punto del film si è addirittura in tre. E la cosa interessante di questo film è François Cluzet, non nascondiamoci, attore straordinario, uno di quegli attori che salvano i film. Qui sia la regia, sebbene le scene in mare siano belle, la sceneggiatura non sono nulla di che. Lui però è straordinario, replica in qualche modo anche lui lo schema di Quasi Amici, due diversi che si incontrano, due uomini in difficoltà, un uomo e un adolescente, e lui è un clandestino che si ritrova sulla barca e Clouset deve combattere contro se stesso, contro la sua voglia di competitività, di vincere contro tutto e tutti, e dall'altra parte però di rimanere uomo, di rimanere se stesso. È una favola, una favoletta, anche con le sue ingenuità, però da una parte Clouset, dall'altro il fatto che ogni tanto abbiamo bisogno di farci accarezzare l'anima, fa sì che In solitario si può vedere. E allora, se In solitario si può vedere, andiamo a capire se si può vedere anche Fuga di cervelli, che è un po' la proposta italiana quantitativamente più importante di questa settimana, con una produzione che tocca circa le 400 copie, insomma una grande presenza, e soprattutto un attore che sia col cinema sia anche con la televisione recentemente ha una grande popolarità. Stiamo parlando di Paolo Ruffini, che è anche regista di questo film Fuga di cervelli, ancora una volta un branco di amici molto strani, molto bizzarri e potenzialmente divertenti alle prese con la loro vita quotidiana. Eccoci qua, amici da sempre. Mi ricorda ancora il giorno in cui Emilio vide per la prima volta Nadia. Del resto anch'io non sono proprio normale. E infatti sei ciecato. Eppure cinese. Ma perché sono cinesi? Metti in un frullatore un po' di Notte da Leoni, un po' di American Pie e un po' di Amici miei, shakerà tutto e prova a fare una commedia demenziale / B-movie come Fuga di cervelli. Esperimento riuscito, il frullato è venuto fuori e Boris o la maionese è impazzita? Allora, sugli ingredienti del frullato sono pienamente d'accordo, perché effettivamente è proprio così che va su In Fuga di cervelli. Paolo Ruffini mi piace, mi è piaciuto come attore in C'è chi dice no e Natale a New York. Qui in qualche modo riesce, è stato molto criticato il film, il punto è che bisogna sempre ricordare che un film riesce quando promette quello che mantiene, e qui non ci si aspetta nulla di più che un film demenziale, genere pochissimo percorso nel cinema italiano attuale, con degli attori che tendono a divertirsi per divertire gli altri. Il livello della comicità è abbastanza basso, però a mio parere, soprattutto nella prima parte, nella parte finale riesce comunque a divertire. Certo, dovete andare al cinema pensando di vedere non una cosa leggera, leggerissima, che quasi mi fa salire in aria in assenza di gravità. E alla fine il divertimento non è assicurato, ma c'è. Ecco, c'è ben nascosto, ma c'è. A questo punto noi salutiamo Boris Sollazzo, che ritroviamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora parliamo di festival, il Festival di Torino, il Torino Film Festival, 31esima edizione che si apre proprio in questo fine settimana nel capoluogo piemontese, un festival che ha ormai una grande storia, un grande prestigio e una grande pregnanza cinematografica. Per la prima volta diretto da Paolo Virzì, che è in collegamento qui con noi alla Rosa Purpurea, che salutiamo e ringraziamo per averci dedicato del tempo in un momento così importante come quello del primo giorno del festival, che è sempre un momento per un direttore di grandissima tensione. Allora, partiamo Paolo da questa questione. Tu hai parlato di un festival popolare, vuoi un festival popolare che metta insieme la qualità del cinema anche con la quantità delle persone. Come hai lavorato a questo concetto? Sì, in realtà è una frase che ha detto Emanuela Martini, la mia vice, ma la sottoscrivo. È un festival che ha sempre coltivato negli ultimi 6 anni perlomeno un'anima raffinata e popolare, cioè da una parte ha spalancato le finestre sul mondo del cinema del reale e sul cinema di frontiera, ha dedicato omaggi a cineasti anche rari, e allo stesso tempo però ha cercato di far abitare nello stesso spazio anche a chi va al cinema, insomma, in cerca di godimento, per cui sia l'intrattenimento popolare che le chicche per i cinemaniaci appassionati di horror, fantasy e film fuori di testa. Quindi in questo senso è un festival piuttosto inclusivo, che credo sia ormai l'unica maniera per poter concepire, per poter dare un senso a un festival in un momento in cui nella realtà, ovvero fuori da qui, fuori dai nostri uffici, nelle città, specie in quelle più piccole, l'offerta culturale, specie quella cinematografica, si assottiglia a una manciata di titoli. E quindi l'idea di poter offrire almeno per 9 giorni un'utopia di un racconto senza frontiere è quello che è stata la nostra linea. Il film d'apertura è Last Vegas, è uno dei film più attesi della stagione perché mette insieme alcune star assolute della storia del cinema, da Robert De Niro a Kevin Kline, tanto per citarne alcune, e però le mette in scena in una sorta di notte da leoni della terza età. È una commedia molto leggera ma molto divertente, che è resa speciale da un cast, diciamo, di fuori classe, di 4 premi Oscar, insomma, di Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline e Michael Douglas, ed è una specie di Amici miei americano, un'avventura, un addio al celibato in epoca senile, dove aleggia anche lì un po' un senso drammatico sotto la commedia spiritosissima. La cosa che ci ha divertito, dal momento che questa edizione e anche la prossima dedicheremo un grande focus alla stagione che ha rivoluzionato il cinema americano, ovvero la New Hollywood dai fine degli anni 60 a metà degli anni 70, era anche divertirsi di vedere che fine avessero fatto poi quei volti di antieroi che avevano, diciamo, cambiato il cinema, il gusto degli spettatori e anche le teste degli autori nel mondo, e cos'erano oggi. Mi sembra anche una maniera autoironica per cominciare. Paolo, per chiudere, se dovessi tirare fuori uno o un paio di film di cui ti senti particolarmente orgoglioso, insomma, di averli fatti venire a Torino. Non lo so, mi viene da dire 4 titoli, forse almeno, invece che uno, l'ultimo di Baumbach, Francesca, con la strepitosa Greta Gerwig, l'ultimo dei fratelli Coen, che esce appunto in anteprima italiana da noi, il nuovo film di Carlo Mazzacurati, che è un film delizioso e comicissimo, e I vampiri colti e dark di Jim Jarmusch. Insomma, un poker di film siamo riusciti a tirarlo fuori dal carnet di Paolo Virzì, che saluto e ringrazio per essere qui alla Nosa Purpurea. Un augurio a questa edizione numero 31 del Torino Film Festival. Grazie a te, ciao ciao. E allora, Torino Film Festival in pieno corso di svolgimento, ricordo fino al 30 novembre, quindi insomma val sempre la pena, bella città e ottimo festival a Torino. Andiamo a giocare con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Oh, ciao cara, tu alzati in piedi quando mia moglie entra in aula, Carter! Mi scusi signore. Humphrey, spero che non ti dispiaccia, ma ho detto ai Garfield che avremmo cenato da loro stasera. Ah, considereremo i preliminari come già fatti, se non ti spiace. No, certo che no, Humphrey. Avete riconosciuto di che film si tratta? Allora scriveteci il titolo alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film, che sveleremo la prossima settimana, così come settimana scorsa avevamo giocato con questa clip. Un altro film intervista, mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti, come dico sempre, a chi? Lascia stare. E allora, era la grande bellezza, l'avete indovinato in tanti, avete giocato in tantissimi, forse il record assoluto di partecipazioni da quando abbiamo cambiato formula e orario. E allora, i più bravi, i più veloci sono stati Claudia Cattaneo di Fonte Nuova, Roma, e Paolo Arizzi di Bergamo. Saranno loro a vincere il Blu-ray del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, del quale parliamo per questa edizione in un video con Giulio San Giorgio e con gli amici di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco e un ben ritrovati ai radioascoltatori. Sì, parliamo del Blu-ray della grande bellezza di Paolo Sorrentino, uno dei film caso di quest'anno, scelto tra l'altro per rappresentare l'Italia agli Oscar. È un viaggio esistenziale nel mostruoso museo delle cere dell'intelligenza romana, delle sue mondanità e meschinità. Blu-ray ottimo sia nell'audio che nel video, con extra come backstage, trailer, gallerie fotografiche, molto sfiziosa quella sulle ricerche delle comparse. Ricordiamo tra l'altro che è uscito anche Paolo Sorrentino, la collezione completa con tutti i film del regista in DVD. E allora ci si può fare anche una cultura in questo senso, e quindi La grande bellezza, non solo La grande bellezza, in un video per Paolo Sorrentino. Parliamo di televisione invece, di film da vedere in TV, da recuperare in TV. Oggi davvero una chicca quella che ci ha pescato il nostro Giulio San Giorgio, un film italiano tutto da riscoprire che si intitola La visita. Sì, la visita domenica alle 4 di notte, quindi sostanzialmente lunedì, e sempre a proposito di fotografia, di ritratti d'Italia, da Sorrentino arriviamo a Antonio Petrangeli, il regista amato sempre troppo poco e troppo tardi, che qui racconta dell'incontro tra una 36enne della bassa mantovana e un goffo e meschino libraio di Roma, in visita per rispondere all'annuncio matrimoniale della donna, che è una straordinaria Sandra Milo. E Petrangeli descrive nel 63, meglio di qualsiasi sociologo, due tipi di nuova piccola borghesia, quella rurale e urbana, con uno sguardo davvero lucido e decisamente emozionante. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento con la visita di Antonio Petrangeli su Rete 4 alle 4 del mattino di lunedì, quindi insomma fissate se non siete nottambuli registratori e non fatevi scappare questo film. Grazie a Giulio San Giorgio e buon lavoro agli amici di Film TV. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata qui a Radio 24. La Rosa Purpurea vi dà appuntamento la prossima settimana, sempre alle 16 del sabato, ma restate in contatto con noi tutta la settimana. Diteci se abbiamo sbagliato qualche pronuncia anche oggi sulla pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità per avere tutta la settimana trailer, novità, notizie, classifiche, tutto quanto muove il cinema. Grazie a Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in redazione, un saluto da Franco D'Assisi.